Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 12 settembre, questa è Italia in controluce, in studio vi parla Daniele Biacchisi. La lettera di Papa Francesco a Repubblica è certamente un atto di coraggio che apre alla cultura moderna. Il pontefice si rivolge a quanti non credono e risponde alle domande che gli aveva posto Eugenio Scalfari sulla fede e sulla laicità. È venuto il tempo di fare un tratto di strada insieme, dice. Dio perdona chi segue la propria coscienza. L'intervento di Papa Francesco apre un fortissimo dibattito nella società italiana. Secondo il teologo e arcivescovo di Chieti, Bruno Forte, si tratta di una grande lezione di umiltà che fa incontrare laici e fedeli. Secondo Massimo Cacciari, invece, ci sono dietro le idee del cardinal Martini. E voi come giudicate questa grandissima apertura ai laici di Papa Francesco? È una svolta rivoluzionaria, così la possiamo definire. Vi ricordo gli sms 349-238-6666. Cominciamo subito, abbiamo chiesto un commento al collega Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Il confronto con i non credenti è oggi per la Chiesa doveroso e prezioso. Papa Francesco, con un nuovo clamoroso gesto, ha affrontato i temi della fede in una lunga lettera al fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, che nel corso dell'estate lo aveva invitato a rispondere alle domande di un laico che, come aveva scritto il giornalista, non ha la fede e non cerca Dio. Bergoglio, che di recente ha firmato assieme al suo predecessore Benedetto XVI l'enciclica Lumen Fidei, ha detto che è venuto ormai il tempo di un dialogo aperto e senza preconcetti che riapre le porte per un serio e fecondo incontro. Anzi, ha aggiunto, questo dialogo non è un accessorio secondario dell'esistenza del credente, ne è invece un'espressione intima e indispensabile, e propone a chi non crede la ricerca comune delle strade dove percorrere un tratto di cammino insieme. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. Grazie Carlo Marroni, 349-238-6666 per i vostri sms. Vi chiediamo oggi come giudicate questa svolta, questa grande apertura ai laici di Papa Francesco, se pensate si possa definire una svolta storica, una svolta epocale. Allora veniamo alle interviste di oggi, che sono molte, abbiamo veramente cercato secondo noi il meglio, diciamo, della teologia, della filosofia italiana, e lo ha fatto per noi Valentina Innocente, che ha intervistato innanzitutto il filosofo Massimo Cacciari. Nella lettera Scalfari si affrontano questioni di fondo, di principio, in modo certamente con un linguaggio più che, per quanto riguarda i principi fondamentali, in uno stile completamente nuovo, sorprendente per un Papa, diretto, del tutto aperto al confronto, assolutamente rispettoso delle opinioni altrui. I principi fondamentali sono tutt'altro che rivoluzionari in sé, perché appunto che non si possa comprendere o determinare concettualmente che la sua esistenza non sia un problema che si può risolvere con dimostrazioni di tipo razionali scientifiche, anche questo è un discorso molto vecchio, proprio di una teologia avvertita e consapevole. L'innovazione sta nel fatto che questo Papa non solo esprime queste posizioni con grande energia, ma vuole confrontarsi su di esse con il non credente. I vostri sms al 349-238-6666 ne arrivano come sempre ogni giorno moltissimi, da Enzo da Milano che dice: Papa Francesco mette gli uomini davanti alle proprie coscienze, ed è questo che è quello che faceva Gesù. Fabrizio dice: il percorso umano diverso nel tempo e nelle persone conduce alla fine per strade diverse ad una meta. C'è chi come Giuliano da Roma dice che un ateo non si lascia perdonare da Dio. C'è chi è sospettoso, così dice Maria Rosa, quando il Papa piace ai comunisti. Maria Rosa, ammesso che ci siano ancora i comunisti. Questo Papa, secondo me, è proprio Gesù, dice Corrado da Como. Io condivido in lui tutto ciò che fa e tutto ciò che dice. Non sono più credente da anni, mi definisco agnostico, ma Francesco mi rappresenta, scrive Nicola da Pescara. Il Papa ha capito che la religione è ormai più fonte di divisione nel mondo che di unità e cerca di correre al riparo. Si chiede Luca da Torino se ce la farà. Non sono credente, pertanto non possiedo le stampelle di cui dispone chi ha la fede, ma Francesco mi dà la fiducia e il suo stile è molto diretto. Maria Rosaria Triunfio. Le religioni danno umanamente terrene, pertanto riduttive interpretazioni di ciò che chiamiamo Dio, per cui ben venga un allargamento ai meno fanatici, scrive Mario da Parma. Continuate, 349-238-6666. Valentina Innocente ha intervistato il priore di Bose, Enzo Bianchi. Il problema è che qualche volta nel dialogo, soprattutto con i non credenti, abbiamo dato l'impressione che vogliamo affermare così tanto il divino, il soprannaturale, da non tener conto invece dello spessore dell'umanità, della storia, con tutti i suoi fallimenti, con tutti direi i suoi mali, ma anche con le sue virtualità e il bene che riesce a fare. Il Papa mi sembra che riprenda quella logica, quell'atteggiamento del Concilio in cui diceva: noi esperti in umanità, perché da 2000 anni nella storia conosciamo l'uomo e vogliamo essere per un cammino di umanizzazione, prima ancora che per un cammino di cristianizzazione. Ma la Chiesa innanzitutto vuole che l'uomo diventi sempre più uomo, che il suo cammino sia un cammino per il bene, per la pace, per la giustizia. È un Papa sicuramente che sta improntando il suo pontificato al rinnovamento. C'è in atto un vero e proprio mutamento della forma di fare il Papa da parte di Papa Francesco. Non c'è soltanto un cambio di stile, ma che c'è qualcosa di più, c'è un'altra strategia, un altro modo di fare il ministero di Pietro, con una grande apertura verso il mondo contemporaneo, con una volontà di dialogo verso la modernità e in un atteggiamento di ascolto piuttosto che di condanna rispetto al mondo attuale. Chiudiamo, mentre stanno arrivando tantissimi sms, vi lasciamo naturalmente sfocare da chi dice: non sono credente, sento Papa Francesco come un amico con il quale posso confrontarmi, scrive Lilia Lilia Castiglioni da Milano. Il Papa pone comunque il credente non allo stesso piano di un non credente, scrive Raffaello. Ma sentiamo Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e teologo. I contenuti sono quelli della fede di sempre, quando per esempio Papa Francesco dice che il termine assolutezza in rapporto a Dio, al Dio cristiano, non è adeguato, perché il Dio cristiano non è absolutus, sciolto dalle relazioni, ma anzi è in se stesso relazione d'amore verso di noi, relazione d'amore. Il Papa dice che è qualcosa che appartiene al contenuto profondo della fede cristiana da sempre. Ciò che è straordinariamente bello è che lui lo dica in dialogo, in risposta alle domande di una intelligenza pensosa e pensante, quale quella di Scalfari, sulla Repubblica, cioè in un territorio che è tradizionalmente considerato, fra virgolette, totalmente laico. Il Papa dimostri come vuole incontrare la persona umana dovunque essa si trovi, dovunque le sue domande vengano poste, rispettandola, accogliendola, andando incontro con simpatia e amicizia. Il grande messaggio che in questo senso fa parte della identità profonda di quest'uomo Bergoglio, che appare come continuamente sorgente di sorprese, ma la vera grande sorpresa è la sua spontaneità, la naturalezza con cui lui fa queste cose, l'assoluta mancanza di tatticismo, il fatto che sono espressioni della sua convinzione profonda di uomo, di cristiano, di gesuita e adesso di vescovo di Roma. 12 settembre, in studio vi ha parlato Daniele Biacchesi, le interviste di Valentina Innocente. Torniamo domani alle 13.30, vi ricordo la pagina, il gruppo su Facebook e anche Twitter.